Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, poche ore, sono Gigi Garanzini, fino a prova contraria, poche ore alla partita inaugurale Polonia-Grecia, due giorni a Italia-Spagna, che è quella che ci riguarderà più da vicino. Comincia una full immersion, questa volta targata Rai come accadeva un tempo, e a me mi è presa la nostalgia della voce, anzi del vocione di Bruno Pizzul. Buongiorno Bruno. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. E credo che farà un po' effetto anche ai nostri ascoltatori riascoltare questa voce. Senti, noi ne abbiamo nostalgia, è anche tua? Ma sì, indubbiamente, sai, quando si volge lo sguardo all'indietro c'è sempre un pizzico di nostalgia. Ti dirò però che insomma io che sono afflitto da tassi di pigrizia piuttosto notevoli me la cavo benissimo anche stando ad ascoltare e vedere quello che fanno gli altri. Te ne fai una ragione, Bruno. Sì, sì, senz'altro. Senti, abbiamo già dato. Io c'è uno slogan che a me piace molto, che è da Carosio a Caressa, no? Lo trovo discretamente affascinante proprio come slogan, no? Mi piacerebbe che tu non dico sintetizzassi, ma insomma ti aggirassi un po' per questo percorso. Ma sì, sai, effettivamente è cambiato molto il mondo del calcio, quindi anche il modo di comunicare. Nicolò era un mito, fra l'altro lui era stato un grande radiocronista e poi ha assorbito molto molto bene il passaggio dalla radiocronaca alla telecronaca. Sì. Aveva questo tono di voce così stentoreo, questa capacità poi anche di passare, quando è diventato telecronista, a una forma di telecronaca non ossessiva, no? Sul piano lessicale. Mm-hmm. Riusciva a dare i tempi giusti senza dover invece tenere i ritmi come alla radio. E poi era indubbiamente uno che aveva un'autorità personale notevole, no? E abbiamo tutti avuto un pizzico di riguardo, anche Martellini nei suoi confronti, no? Sì. Poi è venuto Nando, che era un grande gentiluomo, no? Non era un grandissimo appassionato di calcio, era però un grande cronista. E con lui le differenze con Carosio non è che fossero molte, no? Poi pian piano, sai, il linguaggio televisivo secondo me è cambiato molto, soprattutto per immagini più che sotto il profilo delle parole, no? Sì. della cronaca. Sì. Perché, sai, originariamente la televisione riprendeva le partite con due o tre telecamere al massimo in campo largo e via dicendo, mm-hmm. Quindi anche la cronaca poteva essere un pochino più sobria, più misurata, no? Sì. Oggigiorno i registi hanno a disposizione un numero elevatissimo di telecamere, siccome sono tutti di formazione cinematografica, è vero. Si sentono un po' sacrificati a riprendere quei 22 in mutande che riprendono un pallone, no? Quindi hanno la tendenza a confezionare una good television, no? Questa serie di immagini così a cascata e via dicendo, quindi anche il commento per parole inevitabilmente finisce per essere condizionato per questo frazionamento di immagini e via dicendo. E poi adesso c'è questa moda della comunicazione ansiosa, no? Se tu ci fai caso anche nella lettura dei titoli del telegiornale, viene fatta come se ci fosse qualcosa di urgente, no? Da fare, sempre in tono ansioso e via dicendo. È una questione di moda. Per di più, una volta, sai, secondo me ha giusta ragione, anche quando facevamo le telecronache da soli, dicevano parlate troppo, e forse avevano ragione, figurati adesso che sei un telegronista, il commentatore, uno vicino a una panchina e poi un altro magari in tribuna stampa, c'è questo profluvio lessicale che qualche volta può sembrare eccessivo. C'è un bel libro appena uscito che ti racconta, si chiama Bruno Pizzul, una voce nazionale, l'hanno scritto Francesco Pira e Matteo Femia, Pira è professore universitario di studi di Udine, l'altro è un giornalista e sociologo, e edito da, lo dico, da Fausto Lupetti, editore, e tra l'altro i ricavati della vendita del libro sono devoluti alla Fondazione Stefano Borgonovo, quindi anche un'operazione doppiamente meritoria. Immagino la fatica che avranno fatto apposta però per tirarti fuori qualche confidenza. Sì, io non volevo assolutamente che loro scrivessero, mi sembrava del tutto inopportuno, no? E veramente non credo di avere vissuto un'esistenza degna di essere riportata su un libro. Poi loro hanno tanto insistito, alla fine gli ho detto vabbè, se proprio lo volete fare. Poi quando mi hanno detto che gli eventuali proventi sarebbero stati devoluti alla Fondazione Borgo Novo, allora sono cedute anche le ultime mie resistenze, no? È un libricino così divertente, fatto da due amici, nulla di particolare, no? Però speriamo poi che effettivamente ne salti fuori qualcosa per la Fondazione. Beh, qualcosa è già saltato fuori intanto perché è un contributo storico su, tu non vuoi sentirlo, ma insomma su un personaggio che ha rappresentato una parte del nostro percorso sportivo, anche formativo, anche sociale da un certo punto di vista, è già una cosa di per sé. Se poi arriveranno contributi in solido alla Fondazione Borgo Novo, a maggior ragione. Bruno, ho apprezzato l'entusiasmo con cui si sono messi all'opera questi due amici, in particolare il professor Pira, che è un sociologo, e tra l'altro mi aveva coinvolto anche in una specie di master per giornalisti dell'Università di Udine, nominandomi addirittura direttore scientifico, figurati con quanto mio imbarazzo. Come l'hai presa bene? Comunque sì, abbiamo vissuto delle esperienze comuni e lui, sentendo anche, non so, gli aneddoti, i ricordi così che io manifestavo nei miei colloqui con i ragazzi, si è fatto prendere dalla fregola di voler scrivere questo libro. Nulla di particolarmente grave, anche perché mi sono particolarmente raccomandato di non usare dei toni. Andiamo piano con gli aggettivi, gli avrei detto, no? Tieni giù gli aggettivi, come avrebbe detto il tuo amico Beppe Viola. Tieni giù gli aggettivi. Sì, senti. Sì, tu fra l'altro sei venuto anche alla presentazione del libro, no? Come no, trovai sul territorio per quella straordinaria iniziativa. La mostra di Rocco continua ad avere un grandissimo successo. Ti ringrazio di questo, è vero. No, ti ringrazio, veramente molto molto bello. È la verità, sono già state più di 3.000 le persone che l'hanno visitata in 3 settimane, quindi io spero che da qui a fine luglio questi numeri... Ma si sta diffondendo la voce anche al di fuori dell'ambito strettamente giuliano, eh? Io sento in giro, la gente mi chiede, ma davvero è così bella, sapendo che io ho avuto la fortuna di venire un paio di volte, io li incoraggio, oltretutto è anche un'occasione per andare a visitare Trieste, che è una città bellissima. Che non guasta mai. Allora, io niente, non posso che augurare buon europeo anche a te, no? Cioè, ciascuno di noi lo guarda, ciascuno di noi lo guarda dal proprio ambito rispettivo. Sì, tra l'altro è un'edizione anche questa, no, che secondo me è particolarmente interessante, perché l'europeo è una storia che va per conto suo, basta vedere l'Albo d'Oro, no? Spesso vincono anche squadre che non sono assolutamente pronosticate, e noi abbiamo questa Italietta nostra che sta soffrendo la vigilia per un'infinità di motivi, e chissà che non facciano bene. Tra l'altro, se c'è una caratteristica tipica della nostra nazionale, spesso anche dei nostri delle nostre squadre di club, è che riusciamo a far giocare male anche quelli che giocano bene. Se si gioca male in due, chissà, può anche capitarti di vincere. Mi scrive un ascoltatore: in confronto ai direttori scientifici di oggi, Bruno Pizzul è un Nobel, e io mi sento di condividere. Un abbraccio, Bruno. Ciao Gigi, altrettanto a te, buone cose. Grazie ancora, Bruno Pizzul. Bruno Pizzul, una voce nazionale di Francesco Pira e Matteo Femia, editore Fausto Lupetti. Vi ripeto, tutti i diritti d'autore ricavati dalla vendita del libro devoluti alla Fondazione Stefano Borgonovo. Uno di questi messaggi ricorda, per esempio, che Pizzul è stato un signor calciatore, è vero, lui poi sostiene che i piedi erano grezzi e che più che altro si reggeva col fisico, però ha giocato anche nel Catania, ha giocato a livello professionistico Bruno a fine degli anni 50 e secondo me non guasta mai, ecco, per fare questo questo mestiere. Arriviamo a, in Polonia, Polonia e Ucraina. Certo, noi per il momento ci riguarda più da vicino la Polonia, non solo per la partita inaugurale di stasera del primo girone per Polonia-Grecia e poi per Russia-Cecoslovacchia, ma anche perché in Polonia l'Italia giocherà la prima partita di domenica. Che cosa esce dal ritiro azzurro? Poco e niente. Stamane partitella a porte chiuse, proprio per evitare che escano indicazioni troppo precise su come Prandelli ha intenzione di schierare la squadra. Qualche giocatore al microfono, per esempio Giaccherini. Ma io fisicamente sto bene, sono arrivato qua il 26 e mi sono messo subito a disposizione del mister, così ho fatto quello che faccio sempre, insomma, in allenamento anche alla Juve, così. Quindi i test sono andati bene e anche il mister mi ha visto bene, insomma, fisicamente. Questo era Giaccherini, che potrebbe essere l'uomo nuovo a sorpresa nel centrocampo, potrebbe, nel centrocampo a 5 che ha in testa Prandelli per il debutto contro la Spagna. Un altro giocatore che dovrebbe essere di questa partita inaugurale è Thiago Motta. Deve avere la responsabilità che difende una nazionale che gioca un campionato importantissimo e abbiamo bisogno di lui, abbiamo bisogno che sia in forma, che sia con i suoi compagni, che lavori per la squadra, che poi alla fine lo conosciamo, è uno che può fare la differenza, sono sicurissimo e sono convinto che la farà. Dedicato a Balotelli, era un intervento di Thiago Motta su Balotelli. Tra l'altro, beh, credo sia un fatto, non credo, è un fatto storico che l'Italia per la prima volta schieri in una competizione internazionale, nella fase finale della competizione internazionale, schieri due giocatori di colore che sono Balotelli e Ogbonna, ed è per il nostro paese, anche da un punto di vista sociale, indubbiamente. Questa una svolta epocale. L'800240024 come sempre il numero di riferimento per intervenire in diretta. Lo ha composto, il primo di oggi a comporlo è stato Sandro dalla provincia di Bari. Buongiorno. Sì, buongiorno. Chiamo da Noci, provincia di Bari. Uh-huh. Ho impianto Bruno Pizzul. Con tutto il rispetto per Bruno Gentili, ma già la nazionale ci fa addormentare. Con Bruno Gentili ancora di più. Grazie, resti in ascolto. Ammazza, Sara. Non so se resta in ascolto Bruno Gentili, se per caso lo fosse, non credo, visto che già si trova in Polonia. Insomma, sinceramente faccio un po' fatica a dissociarmi, no? Come sarebbe forse più politica, o perlomeno a prendere distanze, come sarebbe politicamente più corretto, perché ahimè ho l'impressione che siamo proprio un pochino così. Dunque, la Polonia in queste tre settimane conta, sto leggendo un'agenzia, conta di ospitare circa 800.000 persone che stanno arrivando e arriveranno per questi europei. Solo oggi all'aeroporto Chopin di Varsavia sono attesi 274 voli in arrivo, compreso dei charter dalla Grecia. Arriveranno alla bellezza di 5.000 tifosi greci. E poi altre informazioni di questo genere. Certo, la sicurezza, il servizio di sicurezza è imponente, è garantita da 2.500 poliziotti, 700 militari, 300 vigili del fuoco, 200 vigili urbani, ma sono pronti anche le parti speciali della polizia, che sono composti da circa 10.000 unità e che appoggeranno anche altre città del torneo, cioè Danzica, Poznan e Breslavia. Un'altra voce possiamo ascoltare. Beh, allora ci spostiamo adesso, perché insomma di altri italiani in giro ce n'è, per esempio alla guida dell'Irlanda, e ne parleremo e come tra pochi giorni, prima del testa a testa, Giovanni Trapattoni. Squadra con dei requisiti molto, a me piacciono, molto belli, lineari, concreti, e quindi non abbiamo grandi giocatori creativi, però abbiamo giocatori concreti, quindi noi esprimiamo sempre un gioco molto lineare, molto concreto, però determinante. Non sarà mai lui a dirlo, non sarà mai Trapattoni a dirlo, semmai Tardelli, che qualcosina, qualche suo vice, che qualche segreta speranza la nutre, ma insomma non è poi così da escludere che possa essere proprio l'Irlanda di Trapattoni la sorpresa del torneo, lo ricordava prima anche Bruno Pizzul nel 92. La Danimarca, nel 2004 la Grecia, cioè delle vittorie a sorpresa, e quando non ci sono state le vittorie finali ci sono state comunque delle eccellenti performance da parte di squadre che all'inizio non facevano parte del ranking più nobile, e quindi non ci sarebbe poi così tanto da stupirsi se questa volta toccasse alla nazionale del trap. Non mischiate la nazionale italiana al calcio scommesse, è una preghiera, una richiesta che fa Daniele De Rossi a 48 ore dall'esordio. Non bisogna confondere la nazionale a qualcosa di gigantesco nel quale noi non ci entriamo. Non voglio essere al centro di qualche contestazione per cose che non ho fatto. Massimiliano ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Forse la mia domanda cade a fagiolo, perché io prima ancora di sentire l'intervista che ha fatto sentire ieri lei di Michel Platini, avevo questa idea che secondo me, se intorno alla nazionale si crea un clima sereno, di tranquillità, insomma, i ragazzi riescono a esprimere un calcio migliore, no? Però la storia allo stesso tempo mi dà torto, perché e con Biarzotti e con Lippi eravamo dentro a un ciclone e siamo usciti meglio, no? Io volevo chiedere a lei cosa ne pensa: è meglio tenerli sulla corda oppure no? Ma insomma, se la corda è quella delle scommesse, insomma, non credo che sia una corda da usare, insomma, non credo che sia la corda migliore. Se insomma, a me pare che questa nazionale sia sulla corda per forza, perché l'ambiente non può non risentire di quello che è successo, delle indagini in corso, dei deferimenti e di tutto quello che conseguirà a quello su cui si sta indagando, da una parte. Dall'altra non c'è dubbio che insomma, la nazionale venga da un mondiale fallimentare, quindi se vogliamo esaminare il momento storico della nostra nazionale, questo non è certamente dei più favorevoli. Lo stesso europeo del 2008, che pure aveva visto poi alla fine un'uscita di scena molto dignitosa nel quarto di finale contro la Spagna, l'Italia non perse contro gli spagnoli, finì 0-0 e fu eliminata soltanto ai calci di rigore, nonostante gli spagnoli fossero favoriti e puntualmente poi la Coppa la vinsero, il trofeo lo vinsero. Dicevo che anche in quell'occasione comunque l'Italia nel girone eliminatorio non fece una gran figura, perché ricordo che la prima partita, pronti via, Olanda e Italia 3-0, e sinceramente non credo che l'Italia beccherà 3 gol dagli spagnoli domenica, così a spanne. La qualificazione arrivò ugualmente per il pareggio miracoloso contro la Romania, con Buffon che parò un calcio di rigore ad Agi, e poi la vittoria sui francesi. Buffon parò un rigore a Mutu, non a Agi, certamente, a proposito di fantasisti rumeni, di generazioni di fantasisti, e poi una vittoria con la Francia, sì meritata, ma con una buona compartecipazione di Domenech nel suicidarsi, sia da un punto di vista di scelte iniziali che poi di cambi in corsa dopo l'infortunio di Ribéry, credo di ricordare abbastanza bene. Umberto, Torino, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, io non sono un grande tattico, non ho mai giocato a calcio e volevo avere da lei una qualche spiegazione. Io non capisco, ma nella difesa 3 qual è il problema di avere due mancini? È un problema di avere due mancini perché il centrale dei tre non può essere mai mancino? È un problema semplicemente oggettivo sui calciatori che al momento abbiamo in rosa? Nel senso, Chiellini non può fare il centrale dei tre e quindi avere Bonna alla sua sinistra? La mia domanda è questa. Io purtroppo non ho mai giocato a calcio, mi piace molto vederlo, ma non so molto come... Umberto, se Chiellini sta in mezzo e Ogbonna sta a sinistra, deve stare a destra De Rossi, cioè deve fare il marcatore De Rossi, deve fare lo stopper De Rossi. Ora, già si può discutere sull'attitudine di De Rossi a fare, diciamo, il libero, messa così e messa in una maniera un po' da retroguardia, diciamo fare il centromediano metodista arretrato, insomma userei la formula che vuole. Cioè già si discute in dottrina se sia il caso di sacrificare un centrocampista come De Rossi in un ruolo di quel genere, se ne abbia l'attitudine, però in quel ruolo non avrebbe compiti di marcatura diretta, dovrebbe più che altro giocare sugli spazi, le distanze, tenere i collegamenti uniti gli altri due, insomma un lavoro tattico più che un lavoro di marcatura. Se De Rossi va invece, se Chiellini sta in mezzo e De Rossi va a destra, deve fare un lavoro di marcatura vera e propria, allora sì che è fuori ruolo completamente. Da lì l'idea che due mancini che devono giocare uno a sinistra e va bene e uno a destra e va un po' meno bene, insomma, da lì questa perplessità. Sabatino ha chiamato da Teramo, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, no, io volevo fare una domanda, diciamo due domande, una tattica e una su Balotelli. Allora, se Balotelli secondo voi è un campione, dato il fatto che in campo sembra sforzarsi poco per aiutare la squadra, e due, questa benedetta difesa a tre riproposta in nazionale, se non era il caso di convocare Cannavaro, che è uno dei migliori centrali italiani per quel tipo di ruolo. Cannavaro, buongiorno. Cannavaro Fabio o Cannavaro Paolo? Paolo. Ah, Paolo. Sì, poteva essere il caso di convocare. Se era Fabio, sì, non c'erano dubbi, secondo me. Fratello. Diciamo che sì, poteva starci, era una soluzione come altre. Prandelli non l'ha presa e basta. Balotelli è un'ipotesi di campione, perché ne ha tutte le caratteristiche, direi le stimmate, purtroppo però non ne ha al momento la capacità di calarsi in quella parte, ecco, al momento, e però è attesa da un momento all'altro la scintilla, Balotelli non sai mai come, sai quando comincia una partita e come comincia non sai mai come finire, può finire nel modo migliore o nel modo peggiore, fino adesso è successo più volte che finisse quando lo aspettavi al varco, che finisse nel modo peggiore, chissà che da dopodomani non cominci invece un ciclo di segno opposto. Il calcio oggi è a conoscenza di tutti. Chi avrà il momento di condizione migliore oggi può aspirare a ottenere qualsiasi risultato, quindi sappiamo perfettamente che la prima partita vale per noi come vale per Italia-Spagna e quindi i primi 90 minuti possono condizionare il torneo, sarà molto importante vincere perché avremo un certo vantaggio, però ritengo altrettanto molto importante non perdere, questo ci può portare ad avere altre valutazioni dopo che ha giocato Italia-Spagna. Ah, certamente sì, se l'Irlanda dovesse riuscire a superare la Croazia nella partita inaugurale, diventa, a seconda anche di come va Italia-Spagna, ma forse diventa comunque arbitra poi del girone, avendo l'Italia all'ultima partita, ma sono conti molto, insomma, come sempre ci si esercita in queste cabale, in queste eventualità, ma poi il campo risponde sempre in una maniera inattesa. Io ricordo 4 anni fa, dopo lo 0-3 della partita inaugurale di Italia-Olanda, non c'era più margine di qualificazione, almeno in teoria. Invece l'Italia, nonostante un ulteriore pareggio contro la Romania, si qualificò ugualmente. Antonio, Roma, buongiorno. Salve, buongiorno dottor Garanzini. La cosa che in questo momento è buffa è che l'Italia in pratica in questi anni non ha mai giocato con una difesa a tre, e ricordo le dichiarazioni di Prandelli dove lui diceva che alcuni calciatori non potevano essere convocati in nazionale perché nel club giocavano con una difesa a tre. Penso a Campagnaro che è stato regalato all'Argentina e credo che chi abbia seguito il Napoli sia sicuramente il laterale destro più forte del campionato, sia in fase difensiva che in fase propositiva. È stato ignorato completamente anche Cannavaro e oggi pensiamo di giocare con De Rossi che non ha l'attitudine di fare il centrale. Ma io credo che Prandelli non sia così, tra virgolette, impreparato a scegliere una soluzione del genere, perché sarebbe, penso, l'ideale portare Bonucci e Chiellini nella fase centrale e portare due esterni di difesa, Maggio, Balzaretti, e cercare di rafforzare il centrocampo con Pirlo, De Rossi, Marchisio e Thiago Motta. Credo, almeno insomma mi sembra, che altrimenti con De Rossi... Questo è il 4-4-2 però, Antonio, che sì, è stato dottore, fatto... Però, no dottore, indipendentemente dal dottore, è stato fatto fuori, è stato fatto a fettine dalla Russia questo 4-4-2, fatto a fettine. Ora, per carità, la Russia non è una nazionale da buttar via, tutt'altro. Ma questa correzione di rotta del CT arriva proprio da una risultante... pratica, vista sul campo, vista e sofferta sul campo, con un altissimo numero di palle gol creato dagli avversari, quasi tutte in combinazioni centrali, e senza che gli esterni riuscissero poi nella fase decisiva a chiudere, per non parlare dei regali finali di Maggio. E quindi da lì nasce, non da una scelta astratta o da una scelta a tavolino. E lo so anch'io, lo sa anche lui, lo sa anche Prandelli, e certamente non gli farà piacere sconfessare le teorie, il lavoro e l'applicazione di 2 anni. Però sta provando a pensare se non sia il caso di far necessità virtù, e mi sembra che abbia intenzione di farlo. Roberto, provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno, grazie Garantini. Stavate parlando di telecronisti, così io avendo anche problemi seri di vista, così ascolto le radiocronache. È molto bravo, secondo me, voglio sapere, Riccardo Cucchi di Radio Rai, assomiglia un po', secondo me, a Enrico Ameri, cioè adesso io lo vedo qua. E poi un'altra cosa, è mica un po' sopravvalutata l'Italia del 68, 70, 72, grandi campioni così, è meglio quella lì di nazionale o quella dell'82, secondo lei? Ecco. Roberto, chi può dirlo? Sono state due signore nazionali, indubbiamente. Forse da un punto di vista strettamente tecnico, credo che quella del 70 fosse anche superiore, da un punto di vista tecnico. Da un punto di vista complessivo, e cioè anche da un punto di vista fisico, anche atletico, quell'altra era più completa. Era forse meno tecnica, pur avendo delle eccellenze con la E maiuscola, ma era più completa. Poi dire quale delle due sia stata più forte, sono quegli esercizi. È come dire tra Cucchi e Ameri, no? Se chi è più bravo, ciascuno è. Sono bravi tutti e due, ciascuno è figlio di una sua epoca. Quella di Ameri era certamente quella di un calcio diverso. Certo che ripetere lo sciringuagnolo di Ameri e soprattutto bissare quella sorta di epos che lui aveva nella voce, e questa era una dote naturale, direi che non è semplice per nessuno. Roberto, grazie. Un pavese adesso, Luigi, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo un attimo parlare della scelta di Balotelli e Cassano e della loro marcatura che subiranno durante questi europei. C'erano altre scelte, probabilmente queste erano quelle più tecnicamente valide. Sicuramente avranno Stice Balotelli, avrà su di sé l'avversario che gli soffierà sul collo e lo fa centrare di tutto per fargli saltare i nervi. Questo nel calcio succede, direi, abbastanza spesso. Sì, e questo per Balotelli è un rischio notevole, anche perché leggevo da qualche parte stamattina che al primo VU del pubblico, se accennava al razzismo, lui se ne sarebbe andato dal campo, no? Adesso è una provocazione, però se il VU lo fa l'avversario, speriamo non gli rifili qualcos'altro, ecco. E quindi è una mina vagante questo ragazzo. Non c'è dubbio, Balotelli è un giocatore ad alto rischio, questo lo sanno i suoi compagni, lo sa il commissario tecnico, lo sappiamo noi, e però con questa in questo momento credo che sia l'attaccante che deve giocare, su cui si deve provare a investire, e a differenza di Cassano, secondo me, che è in condizione assai meno viva da un punto di vista psicofisico. Poi il campo si diverte spesso a rovesciare questi verdetti. De Rossi dice: al 99,9% giocherò come centrale difensivo, ma non sarò un difensore, o non solo un difensore, sarò un collante tra difesa e centrocampo. Ma infatti questo è perfettamente logico. Vediamo se possiamo sentire questa lunga conversazione di Capello, questa lunga intervista a Capello sulla partecipazione azzurra a questo europeo. Mi sembrava persino impossibile potesse riproporsi, ma evidentemente nella testa delle persone non ci si può entrare, e credo che chi gioca non è un tarlo, è una malattia, perché uno è ammalato per il gioco, perché io conosco delle persone che non possono fare a meno di giocare, di andare al casinò, di puntare su qualche cosa, e purtroppo non hanno limiti, e su questo giocano coloro che intervengono illegalmente nel mondo dello sport. In realtà questo era il Capello che parlava di scommesse, di questa piaga, era un altro il contributo che avevamo promesso e che adesso ascoltiamo. Capello sull'Italia in questa avventura europea. Anche in Mondiale di Spagna ci sono state delle problematiche, delle critiche alla squadra, questa volta le critiche sono di un'altra parte. Non lo so se riusciranno a compattarsi, sarebbe molto molto importante. Soprattutto per dare una scossa e una risposta molto positiva al calcio italiano. L'Italia credo che purtroppo ha avuto degli infortuni e delle problematiche che sicuramente non ci aspettavamo, e questo non ha favorito certamente l'avvicinamento alla competizione, soprattutto giocando la prima partita contro la Spagna, che è la squadra secondo me favorita. Ho visto che però hanno ritrovato un po' di serenità dopo essere andati a Auschwitz, cosa che io ho fatto tanti anni fa, ed è una cosa che ti fa tornare con i piedi per terra, e forse è stata una medicina migliore. C'è un italiano, uno in più, oltre a quelli della nostra nazionale, oltre a Trapattoni, oltre a Tardelli, che avrà oggi in particolare un ruolo centrale in questa giornata, perché è Balic ed è l'uomo che ha allestito anche questa cerimonia inaugurale, dopo tante altre, a cominciare da quella di Torino 2006. Sentiamo. Stiamo per fare una bellissima cerimonia che cercherà di emulare o essere migliore di un halftime Super Bowl, cioè quello spettacolo incredibile che c'è nel tempo tra il primo e il secondo tempo del football americano, del Super Bowl. In 12 minuti da zero costruiamo un'enorme coreografia con un sacco di oggetti che poi vengono smontati. È il momento di Nicola Filippone e del suo europeo curioso. Che cosa ha trovato per un 8 giugno? Sentiamo. Sembra ieri. 8 giugno 1996. A Wembley l'Inghilterra stecca nel match inaugurale contro la Svizzera. Dopo essere passati in vantaggio con Shearer nel primo tempo, gli inglesi subiscono l'1-1 a 8 minuti dal termine, su calcio di rigore, fischiato per fallo di mano di Stuart Pearce e realizzato dall'ex attaccante del Bologna, Kubilay Türkılmaz. Le nazionali ospitanti hanno sempre fatto fatica nel match d'esordio agli europei. Solo la Francia nel 1984 e Belgio e Olanda nel 2000 hanno infatti sfruttato il fattore campo alla prima apparizione, vincendo davanti al proprio pubblico. Vediamo la Polonia stasera se riesce a infrangere questa tradizione negativa, non in assoluto ma abbondantemente sì. 24 è il numero di oggi, il numero europeo, perché? Perché Nicola, frugando tra i corsi e i ricorsi, ha trovato che 24 è la parentesi temporale più ampia tra una presenza alla fase finale e la qualificazione successiva. La Francia, per esempio, giocò in casa come organizzatrice l'Europeo del 60, ma poi dovette aspettare l'84 per rientrare. La Grecia dovette dall'80 aspettare il 2004, e quest'anno è l'Irlanda che manca dal 1988. Faccio notare che quando rientrarono sia la Francia che la Grecia vinsero al primo tentativo, e questa sarebbe un'altra cabala che potrebbe indicare la nazionale di Trapattoni. Nel frattempo mi ha raggiunto Claudio Arrigoni. Buongiorno Claudio. Buongiorno Gigi, buongiorno. Allora, Claudio Arrigoni da domani darà vita a una serie di fine settimana d'autore durante questi europei e in previsione poi delle Olimpiadi. No, no, prima di tutto mi fa piacere essere qui con te adesso, perché la tua voce è una voce usuale non solo per i radioascoltatori Radio 24 ma anche per me, quindi questo prima di tutto è un grande piacere. E poi sì, fine settimana che naturalmente in questo periodo saranno molto calciofili, ma non solo, perché come puoi immaginare comunque lo sport non si ferma perché ci sono gli europei di calcio. E certo, e poi il fine settimana in particolare, no, si presta ad aprire il ventaglio un pochino. Assolutamente. Quindi, sì. Domani per esempio sicuramente andremo a commentare Sara Errani, perché questa... Intanto scusami, l'appuntamento è 17-18. 17-18. E vale sia per il sabato che per la domenica, ed è un orario estivo. Che seguiremo per quest'estate. Quindi dicevamo di Sara Errani e di questa finale storica di nuovo a Roland Garros, ma poi c'è il basket che inaugura le finali Scudetto, c'è la Formula 1 con il Gran Premio del Canada che sarà poco dopo. C'è una cosa molto particolare che sarà bello magari anticipare e poi seguire anche nel giorno successivo, che potrebbe essere la qualificazione storica di Oscar Pistorius all'Olimpiade di Londra. Oscar correrà domani nella nostra notte a New York e potrebbe essere veramente una giornata storica per l'atletica. Naturalmente piatto forte sarà il calcio, e quindi con grande piacere ci sarai tu a introdurre questa vigilia dell'Italia. E... Beh, anche se mi pare che gli eventi alternativi di cui hai parlato, insomma, non sono proprio di secondo piano. Bene, allora appuntamento con te sin da ora a domenica, e dalle 17 alle 18, e poi nel prosieguo estivo preparando la grande avventura olimpica di fine luglio, mi pare, no? Preparando l'avventura olimpica di fine luglio, seguiremo anche quella, fra l'altro lì tutti i giorni, poi ci sarà anche Carlo Genta, quindi sarà sicuramente una bella estate di sport. Tommaso ha chiamato da Palermo, buongiorno. Buongiorno dottore Garanzini, è sempre un'emozione e un piacere sentire. Eccolo là, dica. Allora, io volevo chiedere il suo parere autorevole sul perché in questa nazionale ci sia difficoltà a trovare posto ad un bomber straordinario come Di Natale. Quattro anni fa Donadoni lo isolò, come ci ricordiamo, all'esterno e sinistro, e incise poco, tra l'altro fu anche sfortunato perché sbagliò il rigore contro la Spagna. Due anni fa in Sudafrica Lippi gli fece giocare 5 minuti di partite, e mi pare che anche quest'anno Prandelli non riesca a trovare posto a Di Natale. Com'è possibile che un bomber che segna gol a raffica ogni anno non riesca a trovare un posto in nazionale? Volevo sapere la sua opinione, dottor Garanzini. Non ce l'ho un'opinione, nel senso che così vanno le cose del calcio, non è la prima volta, la storia è piena di cannonieri nostrani che poi invece o venivano utilizzati poco, o se anche venivano utilizzati non riuscivano a fare il salto di qualità a livello internazionale. Io non sono poi così certo che Natale giocherà così poco quest'anno, perché mi sembra che le condizioni di Cassano non siano particolarmente rassicuranti, e quindi credo che a Balotelli verrà affiancato qualcun altro, non dico da subito ma forse da abbastanza presto. Bisogna vedere chi è quel qualcun altro, perché Di Natale certamente è più duttile come soggetto. Di Natale può anche fare lui la prima punta, indipendentemente dal fisico, perché così gioca a Udine. Lui a Udine gioca o da punta unica o comunque da prima punta, e quindi Balotelli giocargli intorno o giocare più largo. Oppure l'altra possibilità, a cui credo Prandelli stia seriamente pensando, è quella di lasciare Balotelli in mezzo, dove lo si è visto giocare con la Russia, e provare invece di Natale a inserire Giovinco, o magari alternarli entrambi, oppure si crea una situazione di punteggio per cui tutti e due potrebbero giocare alle spalle di Balotelli, oppure Balotelli nel frattempo ne ha già fatto una delle sue e quindi hai voglia a far giocare Di Natale e Giovinco e magari pure Borini. Stiamo a vedere, aspettiamo prima che cominci almeno. Milano, Ferdinando, buongiorno. Buongiorno, volevo fare due domande, uno sì. Sull'Italia e uno sul mercato. Sull'Italia, come mai Prandelli gioca a tre e non ha convocato Cannavaro? La seconda invece, la Juve prende Asamoah e Isla per 15 milioni per due non proprietari, mentre a Napoli all'Inter sono stati chiesti 18 milioni di euro per il cartellino. E quindi? quindi non lo so, no, mi faccia grazie Ferdinando di valutazione di mercato, di confronti, di raffronti, di sospetti, no? Mi sembra di capire. Davvero, mi faccia grazie. Già, ci sono gli europei, prendiamoli come una parentesi, non dico necessariamente trionfale, ma almeno un po' disintossicante, almeno questo. Stefano Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Io riguardo alla formazione degli europei, secondo me, io non l'ho vista malissimo. La partita con la Russia, secondo me ci sono stati degli errori pacchiani, ma nel complesso l'Italia ha avuto anche parecchie occasioni, quindi insisterei sul 4-4-2, però porterei Bonucci destro di difesa e Maggio sposterei laterale di centrocampo e Giovinco secondo punto, perché per me, io ho visto giocare varie partite, il miglior giocatore italiano, cioè è formissima, è così. Miglior giocatore italiano magari, però insomma comunque certamente un giocatore di grandi qualità e di grandi risorse, può essere un'idea anche questa. Non è ancora scritto nel Vecchio Testamento che poi Prandelli passerà a questo 3-5-2, può benissimo darsi che alla fine si convinca di riproporre il suo modulo abituale. Certo, la tentazione di attuarlo nella partita inaugurale con la Spagna, in maniera da controllare un pochino di più il territorio in mezzo al campo, dove quelli sono dei maestri a far girare il pallone e a farti girare la testa, beh insomma potrebbe, credo sia appunto sia una tentazione abbastanza forte a cui non sarà facile resistere, soprattutto dopo quegli esempi con la Russia. Lei dice l'Italia ha anche creato qualcosa davanti, sì, non tanto, ma il problema non è tanto quello che quel poco o quel tanto che ha creato davanti, è quel tantissimo che ha concesso a loro dietro, con una sistemazione della fase difensiva che insomma, con tutto rispetto per la Russia, già è costata cara contro di loro, contro nazionali più forti. Io non penso tanto alla Spagna, che non ha grandi attitudini offensive e non ha grandi attaccanti di ruolo a disposizione, ma insomma andando avanti questo torneo, ammesso che si vada, rischierebbe di costare molto caro. Dunque per oggi mi pare che possiamo chiudere qui. Con Claudio Arrigoni siamo d'accordo che da domani prendi tu le redini di questo appuntamento. Vi ricordo il sabato e la domenica con Claudio Arrigoni alle 17 e sino alle 18 per tutta l'estate, in attesa di grandi programmi e di grandi sviluppi poi in chiave olimpica. Per il momento grazie a Matteo Comes in regia, a Franco Piantanida in redazione, e l'appuntamento di oggi è concluso. Vi ricordo quelli del fine settimana. Buon pomeriggio. Montante, la bici italiana dal fascino inconfondibile, una vera e propria mania. Vi ha presentato A Tempo di Sport.